Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera facciamo un viaggio dall'altra parte del mondo e parliamo di Giappone. Ne parliamo con uno dei maggiori esperti di Giappone, un maggiore esperto italiano di Giappone, con Vittorio Volpi. Buonasera Vittorio Volpi. Buonasera. Vittorio Volpi ha lavorato a lungo in Giappone per oltre 30 anni, è stato responsabile di grandi banche internazionali, ha insegnato alla Sophia University Business School di Tokyo, ha collaborato e collabora con testate italiane e ha scritto questo libro, Giappone delle meraviglie, miracoli del passato, sfide del futuro, la prefazione di Franco Mazzei, l'editore è l'Università Bocconi. Allora, Giappone delle meraviglie, Vittorio Volpi, noi siamo abituati a sentir parlare del Giappone come un paese, diciamo così, vecchio, stanco, in cui da anni, anzi da decenni, l'economia non si muove, fa fatica a riprendersi. E questo titolo è un po' provocatorio. Perché Giappone delle meraviglie, Vittorio Volpi? Il Giappone delle meraviglie perché è un paese che è sempre stato capace di sorprendere con delle mosse ardite e con, diciamo così, dei successi imprevedibili dall'esterno, quindi è un paese che ci ha abituato negli ultimi secoli in particolare a delle sorprese, a delle meraviglie. Ecco, queste sono state le sorprese soprattutto del secondo dopoguerra, quando è diventata una potenza economica in pochi anni. Lei ha vissuto direttamente questi anni. Che cosa differenziava questi anni, gli anni 60, gli anni 70 rispetto a quelli attuali? Beh, il Giappone aveva più fame, è uscito dalla guerra totalmente cambiato, un paese che si è accorto che l'imperatore non era un dio in terra ma era un uomo come loro, questa prima cosa, e secondo, diciamo così, malmesso da una sconfitta militare con, fatto unico al mondo, l'olocausto atomico con le bombe di Hiroshima e Nagasaki, quindi un paese moralmente distrutto che ha saputo riprendersi e avviarsi verso il vertice delle economie mondiali in 20-25 anni, quindi un miracolo giapponese molto prolungato. E oggi che si vede un paese che invece fa fatica a tenere la testa fuori dall'acqua con delle crescite minime, ci si domanda cosa è successo, ecco perché da una parte le meraviglie, dall'altra le sfide del futuro. Ecco, da un certo punto di vista, lei spiega molto bene nel capitolo dedicato alla seconda apertura, dall'olocausto atomico, ricordiamo Hiroshima e Nagasaki, alla corsa del PIL, il PIL che tra gli anni, tra 1960 e 1967 si è addirittura raddoppiato. Ecco, in questo periodo c'è un, diciamo, un meccanismo virtuoso in cui l'economia privata si sposa con l'intervento pubblico, un intervento pubblico molto forte, in cui la stessa relazione internazionale portano ad avere degli elementi positivi soprattutto sul fronte dell'innovazione. Si dice molto spesso che i giapponesi hanno copiato le realtà americane o anche europee, ma le hanno poi perfezionate in modo da diventare competitivi in molti campi, soprattutto nei campi dell'elettronica come della fotografia e così via. Ecco, questo rapporto virtuoso tra Stato e mercato c'è ancora in Giappone? Questo rapporto virtuoso certamente non spiega tutto, come mi ha insegnato un padre gesuita, non c'è mai una cosa sola che dà una spiegazione a tutto, ci sono sempre parecchie cause con cause. Quindi il Giappone quel periodo è certamente stato virtuoso e non è che è cambiato il modello di riferimento, il rapporto Stato-mercato che, ricordo, gli orientali sanno azionare molto meglio, anche perché nella filosofia locale non c'è il modello aristotelico del tertium non datur, ma certo, le cose possono essere e non essere, dipende dalle situazioni. Quindi essere o non essere nel mondo confuciano, di cui il Giappone è parte integrante, non funziona. E quindi il modello Stato-mercato non è cambiato, ma sono cambiate altre circostanze. Cioè quali circostanze attualmente? Vittorio Volpi. Circostanze cambiate sono, come ho cercato di descrivere nel mio libro, che il paese è diventato affluente, è un paese che ha raggiunto un reddito pro capite superiore ai 40.000 dollari e quindi, diciamo, la stamina a fare le cose è venuta a mancare, ma soprattutto quello che è venuto a mancare è che l'apertura del mondo, la globalizzazione, che una ricordo come scrive Friedman, una camicia dorata, camicia di forza dorata, premia quelli che sanno aprirsi e che si adattano al processo di globalizzazione. In questo la Cina è stato il maestro, il campione, certo. E invece diciamo castigano quei paesi che hanno difficoltà a cambiare passo nella cultura. E questo è il Giappone, che non sa aprirsi come dovrebbe, non sa ricevere investimenti esteri come dovrebbe e che ha una cultura fortemente particolaristica che ha, diciamo così, una volta messo in comunicazione con gli altri paesi, stenta a prendere lo stesso passo. Ecco, forse questo è proprio il tema di fondo, cioè il fatto che il Giappone ha cercato di rivoluzionare la propria economia con il Premier Abe, si è parlato di Abenomics, e lei appunto parla di questa nuova politica, una politica molto basata sulla politica monetaria, su una politica monetaria espansiva, su una politica fiscale flessibile, con una terza gamba che è quella delle riforme strutturali, in cui il Giappone fa fatica ad andare avanti. È un po' una sindrome italiana, possiamo chiamarla così, anche l'Italia ha qualche problema sul fronte delle riforme. Vittorio Volpi. Beh, culture lontane, ma qualche punto di contatto molto forte. Una volta un ambasciatore giapponese mi ha detto: pensavo che noi giapponesi fossimo un paese molto conservatore, in realtà vivendo in Italia, facendo l'ambasciatore, mi sono accorto che gli italiani sono ancora più conservatori e resistenti al cambiamento, e questo è uno dei problemi di fondo del Giappone, unitamente a quello sociale, perché è chiaro che a un declino così forte di un'economia, di una società, evidentemente non si può ascrivere il tutto all'economia. L'economia è una cosa, ma poi c'è la società che è molto importante, cambiamenti sociali. E questi sono certamente più difficili che non i cambiamenti. Questi sono molto difficili da cambiare. I cambiamenti sociali ci sono stati, è arrivata l'affluenza, è arrivata la ricchezza, c'è meno stamina, però si sono aperte delle voragini nella equità sociale, dove il Giappone eccelleva, creando categorie molto diversificate di ricchi e di poveri, e questo certamente non ha contribuito al benessere del Giappone. Una scuola incompetente rispetto a quello che il mondo oggi chiede, che è la creatività, in un'economia, in una scuola giapponese che invece punta agli esami basati su delle tabelline, sui quiz, evidentemente non si tende più a formare gli uomini. Certo. E questo è un aspetto molto importante. Poi le donne che non si sposano, si fanno pochi figli, la crisi giapponese moltissimo sul cose che tutti noi europei avremo sempre più, in maniera sempre più rilevante, non si fanno figli, quindi c'è il tasso di natalità che porta a una riduzione della popolazione, e siccome il Giappone non è aperto all'immigrazione per nulla, evidentemente è destinato in 30 anni a scendere da 128 milioni di abitanti al di sotto dei 100, quindi c'è meno manodopera, gente sempre più vecchia, diciamo la crisi dell'assistenza sociale, sono tutti problemi che il Giappone sta sperimentando molto più in fretta di noi, ma che noi vedremo fra 10 o 20 anni, come scrive infatti un grandissimo economista americano. Dice: attenzione a guardare al Giappone, a non condannarlo così superficialmente, ma a guardare a lui come un laboratorio di ricerca per noi occidentali, perché lui sta vivendo molto più, in modo molto più accelerato, quello che noi vedremo fra pochi anni. E infatti lei conclude il suo libro dicendo che possiamo essere certi che il Sollevante saprà, grazie alla sua straordinaria capacità di affrontare sfide complesse, convertendo le minacce in opportunità, dare una risposta in primo luogo alla sua lunga crisi, una risposta che sarà utile anche per altri paesi come l'Italia. Quindi ha una grande fiducia, lei che conosce bene il Giappone, sulla capacità di adattarsi al cambiamento, di cavalcarlo e di trasformare appunto le difficoltà in opportunità. Esattamente, anche perché in presenza di un paese che, se riesce a mantenere il PIL, quindi il prodotto interno lordo ai livelli attuali e crescere anche di poco, con una popolazione che decresce, vuol dire ci sono più, come si dice in inglese, più goodies, più cose buone per tutti, no? Ecco, un'altra cosa, un altro particolare per concludere sul fronte della politica estera. Il Giappone ha appena firmato questo accordo transpacifico con gli Stati Uniti. Vuol dire che il Giappone ormai deve guardare più verso appunto l'America che non verso la Cina. Il confronto tra Cina e Giappone resta un confronto aperto. Si può prevedere qualche avvicinamento e qualche collaborazione? Beh, Cina e Giappone, al di là delle chiacchiere, comunque sono uno dei trade, quindi dello scambio di merci e di servizi più importanti al mondo, di maggiore dimensione. Questo bisogna sempre dare un taglio a quello che è la cronaca, da quello che poi è la realtà. Cina e Giappone, al di là di tutto, sono due paesi pragmatici, guardano sempre al sodo. Detto questo, comunque, è evidente che poiché l'economia del mondo, come dice Niall Ferguson, si è spostata definitivamente verso l'Asia e quindi noi saremo sempre più marginalizzati, oggi la mele dell'economia si spacca sul Kazakistan, ma tra 20 o 30 anni probabilmente sarà su Shanghai o su Chengdu, non lo so, ma certamente in quella parte del mondo c'è la crescita, le popolazioni, le materie prime, eccetera. Il Giappone ha certamente grandi opportunità, ma allo stesso tempo la politica vedrà uno scontro formidabile fra Cina e Stati Uniti. Il Giappone sarà un comprimario, cioè sarà l'assistente dall'America. Grazie Vittorio Volpi di averci spiegato come va il Giappone, quali prospettive ha questo grande paese molto simile all'Italia nei suoi problemi e da cui possiamo anche trarre qualche spunto, che comunque è un protagonista nell'economia della società internazionale. Ricordo, il libro è il libro di Vittorio Volpi, Giappone delle meraviglie, edito dall'Università Bocconi Editore. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Peter Bescapè in regia, Luca Cremonesi in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.